L'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino. Musiche di Bruno Nicolai. Regia di Nanni De Stefani. Terza puntata. Bradamante e l'Ippogrifo. Lettura poetica di Giancarlo Sbragia. Narratore Gianni Bonagura. In una locanda presso i Pirenei servivano la cena. Tutto d'un tratto un gran rumore. L'oste e i suoi garzoni corrono chi alle finestre e chi per strada e guardano verso il cielo a bocca aperta. Le donne invece lasciano i fornelli e si nascondono in cantina. Che diavolo succede? Un'eclisse? Una cometa? I due avventori non sembrano tipi da perdere la calma. Uno è un cavaliere dalla splendida armatura, dal viso radioso e dalle lunghe chiome d'oro. L'altro è un brutto ceffo in calzamaglia, basso basso e nero nero. L'oste si affretta a scusarsi. Niente, niente, è già passato. Passa volando tutte le sere, non bisogna fargli caso. È un cavallo con le ali, con un mago sopra. Se vede una bella donna, cala giù e la rapisce. Per quello scappano le donne, le belle e quelle che credono d'esserlo, cioè tutte. Le porta in un castello incantato su per i Pirenei e le tiene lì. Anche i cavalieri li chiude, quelli che vince in duello, perché finora chiunque ha provato a sfidarlo è finito in mano sua. I due avventori non battono ciglio. Sia l'uno che l'altro erano venuti lì proprio per quello. «Bene», fa il cavaliere coi capelli lunghi, «se mi trovi una guida vorrei provare a sfidarlo, questo mago». «Posso insegnartela io la strada», dice l'omino nero, «di me ti puoi fidare». Era proprio quel che Bradamante s'aspettava, perché quel cavaliere altri non era che la più valorosa guerriera del campo di Carlomagno, Bradamante, sorella di Rinaldo di Montalbano, e l'omino nero era Brunello, un ladro al servizio dell'armata saracena, famoso tra l'altro per avere rubato ad Angelica un anello magico che veniva dal Catai. Sia Bradamante che Brunello erano lì per cercare di liberare dal castello del mago Atlante uno dei cavalieri che v'erano imprigionati, cioè Ruggero. Bradamante sapeva di Brunello, anzi era scesa alla locanda proprio per cercare di ritogliere al ladro l'anello rubato, unico mezzo per resistere agli incantesimi del mago. Brunello invece non l'aveva riconosciuta. E lei si era guardata bene dal dirgli chi era. È lecito rubare ai ladri? È lecito simulare coi simulatori? Bradamante stava appunto risolvendo affermativamente questo problema di coscienza quando l'Ippogrifo aveva fatto la sua apparizione. Il fine che muoveva Brunello sulle tracce di Ruggero era importante. Doveva riportarlo da re a Gramante e fargli riprendere il suo posto di combattimento nelle file saracene. Il fine che muoveva Bradamante era più importante ancora. La guerriera era innamorata di Ruggero. Guerrieri d'eserciti nemici s'erano incontrati in battaglia, innamorati l'uno dell'altra a prima vista, poi subito dispersi. C'era di mezzo tutta una questione di profezie. Ogni passo di Ruggero, uomo predestinato, era dettato dagli astri. Le stelle avevano deciso che Ruggero dovesse convertirsi al cristianesimo e sposare Bradamante. Ma era pure decretato dalle stelle che dopo questo matrimonio Ruggero morisse per tradimento della casa di Maganza. Queste cose il mago Atlante le sapeva bene, lui che aveva allevato Ruggero e nutriva per il cavaliere un affetto più sollecito di quello di una mamma, tanto che per impedire che corresse dietro a Bradamante e incontro al suo destino, l'aveva chiuso in quel castello incantato e lo circondava di belle donne e prodi cavalieri perché si trovasse in buona compagnia. L'indomani, all'alba, Bradamante e Brunello partono a cavallo per le gole dei Pirenei. Il castello è là, tutto d'acciaio. Bradamante cala una delle sue mani di ferro sulla collottola della sua guida. Brunello finisce legato al tronco di un abete. L'anello magico passa al dito della guerriera, che dà fiato al corno. È un segnale di sfida. Atlante esce in sella all'Ippogrifo. Con la sinistra regge uno scudo velato che appena si scopre abbaglia l'avversario. Nella destra ha un libro. Gli bastava leggere le formule magiche di quel libro e chi combatteva con lui si sentiva piovere addosso colpi di lancia, di stocco e di mazza, senza che Atlante avesse mosso un dito. Ma per Bradamante, con l'anello che ha al dito, non c'è magia che tenga. Atlante svolazza sull'ippogrifo e legge le sue formule, mentre lei finge di difendersi a fatica da una gragnuola di colpi immaginari. Al mago piaceva giocare come il gatto col topo, poi scoprire lo scudo e folgorare l'avversario. Così fece. Bradamante chiuse gli occhi e si finse svenuta. Atlante plana, scende di sella, s'avvicina con una catena in mano. Un attimo dopo, la morsa delle braccia della fortissima guerriera ha abbrancato il mago, che visto da vicino si rivela un povero vecchio inerme e disperato. Bradamante non era donna da lasciarsi impietosire. Per prima cosa lo costringe a spezzare certe pentole fumanti che fanno dileguare il castello nel nulla. Ruggero e i suoi compagni di prigionia si trovano liberi, all'aperto. Ecco che si sparpagliano per la valle cercando di catturare il cavallo alato. L'ippogrifo apre le ali, svolazza, si posa qui, là, più in là, ora è in cima a una roccia, ora giù in un crepaccio, ora in un prato. Ed ecco, scatta un altro tranello del vecchio Atlante. L'ippogrifo si lascia cavalcare solo da Ruggero. Ruggero monta in sella, l'ippogrifo prende il volo. Il cavaliere, appena liberato, è rapito un'altra volta. Quantunque il simular sia le più volte ripreso e dia di malamente indici, si trova pur in molte cose molte aver fatto evidenti benefici e danni e biasmi e morti aver già tolte, che non conversiam sempre con gli amici in questa assai più oscura che serena vita mortal, tutta d'invidia piena. Se dopo lunga prova a gran fatica trovarsi può chi ti sia amico vero, e da chi senza alcun sospetto dica e di scoperto mostri il tuo pensiero, che dee far di Ruggier la bella amica con quel Brunel non puro e non sincero, ma tutto simulato e tutto finto, come la maga le l'avea dipinto? Simula anch'ella, e così far conviene con esso lui, di finzioni padre. E come io dissi spesso, ella gli tiene gli occhi alle man, che eran rapaci e ladre. Ecco! All'orecchie un gran rumor lor viene. Disse la donna: «O gloriosa madre, o re del ciel, che cosa sarà questa?» E dov'era il rumor si trovò presta. E vede l'oste e tutta la famiglia, e chi a finestre e chi fuor nella via, tener levati al ciel gli occhi e le ciglia, come l'eclisse o la cometa sia. Vede la donna un'altra maraviglia, che di legger creduta non saria. Vede passar un gran destriero alato, che porta in aria un cavaliero armato. Grandi eran l'ale e di color diverso, e vi sedea nel mezzo un cavaliero di ferro armato luminoso e terso, e ver ponente avea dritto il sentiero. Calossi e fu tra le montagne immerso, e come dicea l'oste e dicea il vero, quella era un negromante, e facea spesso quel varco or più da lungi or più da presso. Volando talor s'alza nelle stelle, e poi quasi talor la terra rade, e ne porta con lui tutte le belle donne che trova per quelle contrade, talmente che le misere donzelle cabbino o aversi credano beltade, come ha fatto costui tutte le invole, non è sconforsi che le vegge il sole. Egli sul Pireneo tiene un castello, narrava l'oste, fatto per incanto, tutto d'acciaio, e sì lucente e bello ch'altro al mondo non è mirabil tanto. Già molti cavalier son iti a quello, e nessun del ritorno si dà vanto. Sicch'io penso, signore, temo forte, o che sian presi, o sian condotti a morte. La donna il tutto ascolta e le ne giova, credendo far, come farà per certo, con l'anello mirabile, tal prova che ne fia il mago e il suo castel deserto, e dice all'oste: «Orun dei tuoi mi trova che più di me sia del viaggio esperto, ch'io non posso durar tanto il cor vago di far battaglia contra questo mago.» «Non ti mancherà guida», le rispose Brunello allor, «e ne verrò teco io. Meco ho la strada inscritto ed altre cose che ti faran piacere il venir mio.» Volse dir dell'anel, ma non le spose né chiarì più per non pagarne il fio. «Grato mi fia», disse ella, «il venir tuo, volendo dir ch'indi l'anel fia suo». Quel che era utile a dir, disse, e quel tacque che nuocer le potea col saracino. Avea l'oste un destrier che costei piacque, che era buon da battaglia e da camino, con perollo, e partissi come nacque del bel giorno seguente, il mattutino. Prese la via per una stretta valle, con Brunello ora innanzi, ora alle spalle. Di monte in monte, e d'uno in altro bosco, giunse nove l'altezza di Pirene può dimostrar, se non è l'aer fosco, e Francia e Spagna e due diverse arene, come Appennin scopre il mar schiavo il tosco, dal giogo onde a Camaldoli si viene. Quindi per aspro e faticoso calle si discendea nella profonda valle. Vi sorge in mezzo un sasso che la cima d'un bel muro d'acciar tutta si fascia, e quella tanto inverso il ciel sublima che quanto ha intorno inferior si lascia. Non faccia chi non vola andarvi stima, che spesa indarno vi saria ogni ambascia. Brunel disse, ecco dove prigionieri il mago tien le donne e i cavalieri. Da quattro canti era tagliato e tale che parea dritto a fil della sinopia. Da nessun lato né sentier né scale veran che di salir facesser copia. E ben appar che d'animal c'abbia ale sia quella stanza nido e tana propria. Quivi la donna esser conosce l'ora di tor l'anello e far che Brunel mora. Ma le par atto vile a insanguinarsi d'uom senza arme e di signobil sorte, che ben potrà posseditrice farsi del ricco anello e lui non porre a morte. Brunel non avea mente a riguardarsi, sicché lei il prese lo legò ben forte ad un abete calta avea la cima, ma di dito l'anel gli trasse prima. Né per lacrime, gemiti o lamenti che facesse Brunel lo volse sciorre. Smontò della montagna a passi lenti, tanto che fu nel pian sotto la torre. E perché alla battaglia s'appresenti il negromante, al corno suo ricorre. E dopo il suon, con minacciose grida, lo chiama al campo e dà la pugna al sfida. Non stette molto a uscir fuor della porta l'incantator, ch'udì il suono e la voce. L'alato corridor per l'aria il porta contra costei, che sembra uomo feroce. La donna da principio si conforta, che vede che colui poco le nuoce, non porta lancia, né spada, né mazza, c'afforar l'abbia o romper la corazza. Dalla sinistra sol lo scudo avea, tutto coperto di seta vermiglia. Nella man destra un libro, onde facea nascer leggendo l'alta maraviglia. Che la lancia talor correr parea, e fatto avea più d'un batter le ciglia, talor parea ferir con mazza o stocco, e lontano era, e non avea alcun tocco. Non è finto il destrier, ma naturale, ch'una giumenta generò d'un grifo. Simile al padre avea la piuma e l'ale, li piedi anteriori, il capo e il grifo. In tutte l'altre membra parea quale era la madre, e chiamasi Ippogrifo. Che nei monti rifei vengon marrari, molto di là dagli agghiacciati mari. Quivi per forza lo tirò d'incanto, e poi che l'ebbe ad altro non attese, e con studio e fatica operò tanto, cassella e briglia il cavalcò in un mese, così che in terra e in aria in ogni canto lo facea volteggiar senza contese, non finzion d'incanto come il resto, ma vero e natural si vedea questo. Del mago ogni altra cosa era figmento, che comparir facea per rosso il giallo, ma con la donna non fu di momento, che per l'anel non può vedere in fallo. Più colpi tuttavia di serra al vento e quindi spinge il suo cavallo e si dibatte e si travaglia tutta come era innanzi che venisse instrutta. E poi che esercitata si fu alquanto sopra il destrier, smontar volse anco a piede per poter meglio al fin venir di quanto la cauta maga istruzion le diede. Il mago vien per far l'estremo incanto che del fatto ripar né sa né crede. Scuopre lo scudo e certo si prosume farla cader con l'incantato lume. Potea così scoprirlo al primo tratto, senza tenere i cavalieri a bada. ma gli piaceva veder qualche bel tratto di correr l'asta o di girar la spada. Come si vede ch'all'astuto gatto scherzar col topo alcuna volta aggrada, e poiché quel piacer gli viene a noia, dargli di morso e al fin voler che muoia. Dico che il mago al gatto e gli altri al topo s'assimigliar nelle battaglie dianzi, ma non s'assimigliar già così dopo che con l'anel si fe la donna innanzi. Attenta e fissa stava a quel che era uopo, a ciò che nulla seco il mago avanzi, e come vide che lo scudo aperse e chiuse gli occhi e lasciò quivi cadersi. Non che il fulgor del lucido metallo, come soleva gli altri, a lei nocesse, ma così fece a ciò che dal cavallo contra sé il vano incantator scendesse. Né parte andò del suo disegno in fallo, che tosto che ella il capo in terra messe, accelerando il volator le penne con larghe ruote in terra a por si venne. Lascia all'arcion lo scudo, che già posto avea nella coperta, e a pie discende verso la donna, che come reposto lupo alla macchia il capriolo attende. Senza più indugio ella si leva tosto che l'avvicin e ben stretto lo prende. Avea lasciato quel misero in terra il libro che facea tutta la guerra, e con una catena ne correa che solea portar cinta a simil uso, perché non men legar colei credea che per addietro altri legare era uso. La donna in terra posto già l'avea, se quel non si difese, io ben le scuso, che troppo era la cosa differente tra un debol vecchio e lei tanto possente. Disegnando levargli ella la testa, alza la man vittoriosa e in fretta. Ma poi che il viso mira, il colpo arresta, quasi sdegnandosi bassa vendetta. Un venerabil vecchio in faccia mesta vede esser quel che l'ha aggiunto alla stretta, che mostra al viso crespo e al pelo bianco età di 70 anni o poco manco. Tommi la vita, giovane, per Dio, dicea il vecchio pien d'ira e di dispetto, ma quella attorla avea sì il cor restio come quel di lasciarla avria diletto. La donna di sapere ebbe disio chi fosse il negromante e da che effetto edificasse in quel luogo selvaggio la rocca e faccia a tutto il mondo oltraggio. «Né per maligna intenzione, ahi lasso», disse piangendo il vecchio incantatore, «feci la bella rocca in cima al sasso, né per avidità son rubatore, ma per ritrar sol dall'estremo passo un cavalier gentil mi mosse amore, che come il ciel mi mostra in tempo breve morir cristiano a tradimento deve. Non vede il sol tra questo e il polo austrino un giovane sì bello e sì prestante, Ruggero a nome, il qual da piccolino da me nutrito fu, ch'io sono Atlante. Disio d'onore e suo fiero destino l'han tratto in Francia dietro al re Agramante, ed io che l'amai sempre più che figlio lo cerco trar di Francia e di periglio. La bella rocca solo edificai per tenervi Ruggero sicuramente, che preso fu da me come sperai che fossi oggi tu preso similmente, e donne e cavalier che tu vedrai, poi ci ho ridotti ed altra nobil gente, a ciò che quando a voglia sua non esca, avendo compagnia, megli rincresca. Pur c'uscir di lassù non si domande, d'ogni altro gaudio lor cura mi tocca, che quanto averne da tutte le bande si può del mondo è tutto in quella rocca, suoni, canti, vestir, giuochi, vivande, quanto può cor pensar, può chieder bocca. Ben seminato avea, ben cogliea il frutto, ma tu sei giunto a disturbarmi il tutto. Deh, se non hai del viso il cor men bello, non impedire il mio consiglio onesto. Piglia lo scudo, ch'io te il dono, e quello destrier che va per l'aria così presto, e non t'impacciar oltra nel castello, o tranne uno o due amici e lascia il resto, o tranne tutti gli altri, e più non chero, se non che tu mi lasci il mio Ruggero. E se disposto sei volermel torre, deh, prima almen che tu rimeni in Francia, piacciati questa afflitta anima sciorre della sua scorza, ormai putrida e rancia. Rispose la donzella: lui vo porre in libertà, tu se sai gracchia e ciancia, né mi offerir di dar lo scudo in dono o quel destrier, che miei non più tuoi sono, né s'anco stesse a te di torre e darli, mi parrebbe che il cambio convenisse. Tu di che Ruger tieni per vietarli il male influsso di sue stelle fisse, o che non puoi saperlo o non schivarli sappiendol ciò che il ciel di lui prescrisse, ma se il mal tuo che hai sì vicin non vedi, peggio l'altrui che ad avvenir prevedi. Non pregar ch'io t'uccida, chi tuoi preghi sariano indarno, e se pur vuoi la morte, ancor che tutto il mondo darla nieghi, da sé la può aver sempre animo forte. Ma pria che l'alma dalla carne sleghi, a tutti i tuoi prigioni apri le porte. Così dice la donna, e tuttavia il mago preso incontra al sasso in via. Legato della sua propria catena andava Atlante e la donzella appresso, che così ancor se ne fidava appena, benché in vista parea tutto rimesso. Non molti passi dietro se la mena, che a piè del monte han ritrovato il fesso e gli scaglioni onde si monta in giro, finché alla porta del castel saliro. Di sulla soglia Atlante un sasso tolle, di caratteri e strani segni in sculto. Sotto vasi vi son che chiamano olle, che fuman sempre dentro han fuoco occulto. L'incantator le spezza e a un tratto il colle riman deserto. Inospite ed inculto, né muro appar né torre in alcun lato, come se mai castel non vi sia stato. Sbrigossi dalla donna il mago allora, come fa spesso il tordo dalla ragna, e con lui sparve il suo castello a un'ora e lasciò in libertà quella compagna. Le donne e i cavalier si trovar fuora delle superbe stanze alla campagna, e furon di lor molte a chi ne dolse, che tal franchezza un gran piacer lor tolse. Quivi è Gradasso, quivi è Sacripante, quivi è Prasildo, il nobil cavaliero che con Rinaldo venne di Levante, e seco Iroldo, il par d'amici vero. Alfin trovò la bella Bradamante, quivi il desiderato suo Ruggero, che poi che n'ebbe certa conoscenza le fe buona e gratissima accoglienza. Come a colei che più che gli occhi sui, più che il suo cor, più che la propria vita Ruggero amò dal dì, ch'essa per lui si trasse l'elmo, onde ne fu ferita. Lungo sarebbe a dir come e da cui, e quanto nella selva aspra e romita si cercar poi la notte e il giorno chiaro, né se non qui mai più si ritrovaro. Or che qui vi la vede, e sa ben che ella è stata sola la sua redentrice, di tanto gaudio ha pieno il cor che appella a sé fortunato ed unico felice. Scesero il monte e dismontaro in quella valle ove fu la donna vincitrice e dove l'ippogrifo trovaro anco c'avea lo scudo ma coperto al fianco. La donna va per prenderlo nel freno e quella aspetta finché se gli accosta, poi spiega l'ale per l'aer sereno e si ripon non lungi a mezza costa. Ella lo segue, e quel né più né meno si leva in aria, e non troppo si scosta, come fa la cornacchia in secca arena, che dietro il cane or qua or là si mena. Ruggier, Gradasso, Sacripante, e tutti quei cavalier che scesi erano insieme, chi di su, chi di giù, si son ridutti dove che torni il volator anspeme. Quel poi che gli altri invano ebbe condutti più volte, e sopra le cime supreme e negli umidi fondi tra quei sassi, presso a Ruggero alfin ritenne i passi. E questa opera fu del vecchio Atlante, di cui non cessa la pietosa voglia di trar Ruggero del gran periglio instante, di ciò sol pensa e di ciò solo addoglia, però gli manda or l'ippogrifo avante, perché d'Europa con quest'arte il toglia. Ruggero lo piglia e seco pensa trarlo, ma quel s'arretra e non vuol seguitarlo. Or di Frontin quell'animoso smonta, Frontino era nomato il suo destriero, e sopra quel che va per l'aria monta, e con gli spron gli adizza il core altiero. Quel corre alquanto, e tindi i piedi ponta, e sale in verso il ciel, via più leggero che il girifalco, a cui lieva il capello il mastro a tempo, e fa veder l'augello. La bella donna, che sì in alto vede e con tanto periglio il suo Ruggero, resta attonita in modo che non riede per lungo spazio al sentimento vero. Ciò che già inteso avea di Ganimede, Calcel fu assunto dal paterno impero, dubita assai che non accada a quello, non men gentil di Ganimede e bello. Con gli occhi fissi al ciel, lo segue quanto basta il veder, ma poiché si dilegua sì che la vista non può correr tanto, lascia che sempre l'animo lo segua. Tuttavia con sospir, gemito e pianto non ha né vuol aver pace né triegua. Poiché Ruger di vista se le tolse, al buon destrier Frontin gli occhi rivolse e si deliberò di non lasciarlo che fosse in preda a chi venisse prima, ma di condurlo seco e poi di darlo al suo signor, tanco veder pur stima. Poggia l'augel, ne può Ruger frenarlo. Di sotto rimaner vede ogni cima ed abbassarsi in guisa che non scorge dove è piano il terren né dove sorge. Poiché sia d'alto vien, con picciol punto lo può stimar chi dalla terra il mira, prende la via verso ove cade appunto il sol quando col granchio si raggira e per l'aria ne va come legno unto a cui nel mar propizio vento spira. Abbiamo trasmesso la terza puntata dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino.